Gianni, buonasera. Buonasera a te, io già sto di Luna. Ciao Gianni, e beh, come va? Come ce l'hai i radiatori, come sono? In alluminio o in ghisa? No, in alluminio. In alluminio. Ma non è che sarà ostruito magari il rubinetto dove entra l'acqua? No, l'acqua mi fa, perché ho fatto lo spurgo e scende, ho fatto uscire tutta l'aria e poi c'è l'acqua. Senza acqua mi fa, non scava. Uno solo è che non funziona, capito? Ma è quello della sala, quello grande che ti fa venire il freddo a guardare il televisore. Ogni tanto ce n'è una comunque, si sa, è così, le cose si consumano col tempo e poi ci vuole un po' di manutenzione. Sì, anche se le tante, con l'andare del tempo si usa, si fa, non capito. Nel bagno puoi dire, c'era cioè, nella vaschetta del bagno c'è quel galleggiante con il polistirolo. Quello lì c'era tu quel braccetto che lo fa muovere, lo fa andare su e giù, no? Quel braccetto non si trova, bisogna comprare tutta la torre, che costa 80 euro. Ma io ho un amico idraulico che mi ha detto, già sei fortunato, io quando ci sono in più le conservo e poi quando mi servo le cerco, ma uguale, me la metto. Ok, ho capito. Vabbè, in un certo senso sì. Per quanto riguarda lo sfaltello dell'armadio, controlla se sarà consumata la rotella. La rotella si sarà consumata, oppure sarà uscito fuori qualche pallina, se c'è di quello a cuscinetti, non lo so, vedi un po'. Devi controllare, insomma, ecco. Ma per controllare bisogna tenerlo fuori, come fai a vederlo così? Bisogna fare uscire l'ante e guardarla bene. Beh, certo, devi togliere l'ante, controlli se lo scorrevole è ancora a posto. Per cui carrello magari a volte si consuma, forse aprire e chiudere come di scivola si consuma il carrello, magari la ruota del carrello e magari sarà per quello che dà fastidio. Ma queste cose scorrevoli io le ho sempre odiate. C'avevo lo sportello del furgone, era laterale che era così, no, era scorrevole. Ogni tanto si rompeva, usciva, poi usciva oppure ci rompeva la bottiglia, oppure ti cadeva addosso senza che te ne accorgessi, si spaccava, cazzo guarda. Me l'ha fatto passare quel furgone con lo sportello laterale. Ma infatti ho detto, quando l'ho comprato, anche quel furgone perché questo qui non va bene. Si rovina sempre, mi sono mancato lo sportello addosso, la volta. Lo so, ma è lo stesso discorso per gli armadi. Tu pensa che ci sono scorrevoli, cioè guide scorrevoli con carrello eccetera che costano 700 euro. Quando ti danno una camera da letto per dire che te la fanno pagare che so io 1500 euro, dimmi tu che cosa possono aver messo come ferramenta. Sicuramente quella più scadente, no? Ripeto, quella è buona, costa 700 euro, 700, 750 anche, un kit di coso, di binari e rotelle, per cui ti puoi immaginare, tanto mi ha dato un'idea, è un po' come il portoncino d'ingresso, no? Tu vai e compri un portoncino d'ingresso, 300 euro, 290 euro lì da Bricomet. Se ti si guasta la serratura, vai a comprare la serratura, veramente, quella buona, costa 300 euro solo la serratura. Per dirti, no, ma si sa, queste cose lo fanno e la gente ci casca. Vabbè, ma la mia camera da letto è la mia 500 euro. Voglio pagare più di così da qui. Vuol dire che hanno utilizzato sempre la ferramenta scadente. un kit di per l'armadio costa intorno alle 700-750 euro, quello che è eterno, però non ti si guasta mai. O evidentemente hanno messo quelli da 70-80 euro, non di più. Sì, ci stanno incantando magari. Ma questa camera d'aria l'ha portata la figlia, quella che c'avevo prima, forse dovrà avere ragione, no? Non è che l'ho pagata 1500 euro, ma era più andata. La stessa qui è una camera d'aria buona. Ci sono spesi magari queste pesce lì. Sì, ma a Pedro non è che le fa lui tanto, che a Pedro se le fa nel bagno, non credere. Non credere che faccia lui, lui fa qualcosa solamente su ordinazione. Non è che lui fa poco, molto poco, perché non le conviene, perché no, cioè non conviene al cliente poi a comprare quello che potrebbe costruire lui, si farebbe pagare il Dio, glielo credo. Sono mobili che ti arrivano fuori e lui li fa passare per sua produzione, ecco qual è il discorso già. Perciò lo sappiamo come funziona il commercio, no? Sapete, può essere anche bravo, però ripeto, lui lasciamo prendere, là, che è meglio. No, io non ho detto che lui si sia spacciato, ma non lo fa tutto, ma vedi, non prende mobili puri, non è vede chiolare roba, lui si non rivede questa roba, poi è tutta roba buona, è costosa, però buona. Io ho riparato tanti di quei mobili comprati da Fedio che tu non hai idea, l'ultimo che avevo preparato proprio una donna, una ragazza, che è una dottoressa lì a Venezia dove ci sono i bambini eccetera, no? Non so se è un istituto per bambini, non so cosa sia, boh, fatto stare lavorare e abita in via Nutricevi, abita questa donna. Aveva le rotelle dei cassetti che facevano appena, nemmeno quelli di bricome, così, ho già. Le rotelle dei cassetti, quando ti durano poco, minimo ti durano 20-30 anni, ti durano. C'erano delle rotelle che loro aveva la camera che l'aveva comprata da pochissimo tempo, in 6 mesi, una cosa così. Tutte le rotelle le ho dovuto cambiare, le ho messe quelle buone come si deve, perché non ne funzionava più una. Ed era un mobile di appeto, lascia perdere che anche appeto fa il suo tran tran commerciale. Non lo avete in dubbio, ma purtroppo sono questi aiuti, questi qui, magari li prendono di quelli che costano poco, però il legno dei mobili di appeto non puoi paragonare certo a quello dei confonati. Beh, non puoi paragonare, non ci mancherebbe altro, vuole vedere, che aspetta. Ma per dirti, però si perdono in certe stupidaggini, perché? Perché devono guadagnare, l'egoismo c'è sempre, quando si tratta di commercio, è quello il discorso. A Pedro, anche se lui era un artigiano, poi è diventato un commerciante, il commerciante fa la vita da commerciante, cioè si comporta da commerciante, ecco qual è il discorso. Come tutti del resto, tutti quelli che hanno intrapreso l'attività del commercio. Prima, se sono artigiani, magari lavorano con più coscienza. Io parlo di quelli che sanno lavorare, naturalmente. Poi ci sono anche le schiappe, anche lì. Però quelli che sanno lavorare lavorano con più coscienza, con materiale migliore, eccetera. Ma poi quando passi nel commercio, sanno benissimo, caspita, io questa cameretta per costruire questa ci devo spendere, per dire, i soldi che con ordinando alla Continente ne compro due, per dire no, hai capito come funziona? E allora lui fa così, se fa passare per sé, cioè come se l'avesse costruito lui in fabbrica, e mentre invece sono arrivati da fuori, sono proprio dalla fabbrica del Continente, non dalla quella che ha lui qui artigianale. Se tu brecchi quando stiamo parlando noi, non ti possiamo sentire, dai. Vabbè, comunque non fa niente. Andare, avanti, adesso. visto che hai beccato, parla, raccontaci tu qualcosa. E cosa non parlo? Con Muro? No, con noi parli, non con Muro, con noi parli, con me e con Gianni. E vabbè, va. Mi sentite a tutti e due. È che io schiacciavo quando mollavi tu, però riprendeva Gianni. E dopo, quando è viceversa, va. Jack lo svento. Perché Gianni è sempre stato Jack lo svento, già lo so. Gianni ce l'ha quel vizio, lui è talmente pronto con la portante, va bene così. Comunque, non è un problema. Avanti già. Sì, ma al momento è stato un dottore che non è di solito molto accesi, quindi stavo facendo passione quella vista. Sì, ma ci fa sempre piacere, quando la presente ci fa piacere, la tranquillità. Oia. C'è il freddo qua a casa, ma non invece di verità la temperatura, c'è un freddo, una crepa. Sì, oggi è più freddo. Tu pensa, stamane quando io sono uscito la macchina mi segnava 5 gradi. Perciò poi magari qualche grado durante la giornata ha aumentato, senz'altro, però è sempre fredda la giornata. E domani sarà ancora peggio, credo, perlomeno stando a quello che hanno detto al meteo. Intanto domani mattina già viene lui a vedere cosa si fa, via. Allora quello più grande che c'è, quello che diciamo riscalda la sala, e lì guarda il televisore la sera, io ho già acceso la stufa poco fa per il sicuro. La radio com'è? Troppo alta, eh? Sì, si sente un rumore sottofondo. Come non lo so se sia qualche cosa che c'è attorno, che si sente, non so se lo senti. Sì, come se fosse un reverbero causato dalla televisione. La televisione è accesa, anche. Ma è senza audio, aspetta un attimo che l'aspetto. E poi c'è anche un fischietto, cos'è questo fischio continuo già? L'hai capito tu che cos'è? Ma non penso che sia la No, ce l'avete anche voi, fa così. Io già non sento niente, io vado già a vedere, io non ti sento niente. Tu a me niente mi senti se c'è questo fischietto, io sento un fischietto con Natalino. Ce l'avete anche voi però sotto il fischietto. Ma io quando parlo adesso non c'è, ad esempio, tu adesso non ce l'avevi, in questo momento non ce l'avevi, io provo a vedere. Guarda, 1, 2, 3, prova. Adesso non c'è più, ma poco fa era proprio un fischio circolare. Tu immaginati uno che fischia circolandosi. È un fischio che c'è sotto ogni tanto, capito? E anche tu ce l'avevi. Però quando parlavi c'era sotto questo fischietto, fa così. A meno che non è quello deficiente che ogni tanto si presenta e che vuole mettere il portante, ma non ce la fa. Sarà quello, quello so. Gianni, parla, vediamo un po' se sento qualcosa da te. Se vuoi lasciarmi il microfono, voi sento parlare, guarda. Non c'è niente. Tu come mi senti, Gianni? Vai. Un rumore sottofondo, lo sento, potrebbe essere un avvento. Quello è un avvento, questo è l'alimentatore che ho vicino. Questo va bene, quello c'è sempre qua. Tu quello me lo sentirai sempre, perché il baracchino è nello stesso tavolino dove c'è l'alimentatore sui cinghi, che ha la ventola a ciclo continuo, per cui quello mi sentirai sempre, almeno fin quando non ci sarà questo alimentatore. Vai Natalino è sceso a comprarsi le sigarette, Gianni, al tabacchino è andato. Oh, stavo togliendo la pettorina al cane che l'ha portato mia moglie. Ho capito Gianni, qual è il rumore che senti? Perché quando io accendo qua, accendo tutto, c'è anche il K acceso, dunque anche il K ha la sua ventolina, per cui è vicinissimo, guarda, è esattamente nemmeno da 40 cm di distanza tra il baracchino e il K, per cui sarà quello, senz'altro è quello anzi. Non lo so, però vabbè, è una cosa che sono andato a ascoltare volta si va lontano, invece avete, adesso, ecco, adesso mi sono allontanato un po', mi so, sicuramente lo senti anche di meno. Sì, è vero. Sì, adesso l'ho messo a metà il microfono, poco fa ce l'avevo alto, capito? Allora l'ho abbassato. Vedi già, questo tipo di alimentatore è bello, è piccolo, compatto, funziona molto bene, però ha quel difetto, questa ventola sempre in continuo funzionamento. E purtroppo è così, e per il raffreddamento ci vuole. Del raffreddamento dell'alimentatore stesso, anche se da 30 ampere lo stesso ha bisogno di questa ventolina, che poi appena gli attacchi subito parte, dopo un paio di minuti appena inizia a scaldare. Però ho notato che quando io apro un coperchio e lo pulisco dentro, la ventola, la pulisco bene, la soffio praticamente così col fiato della bocca stesso, e poi quando riparte va meglio, cioè si sente di meno come fischio, come suono, capito già? Sì, è vero. Invece io ho un alimentatore dove si può staccare e attaccare quando vuoi, una ventola, ma la lascio sempre attaccare, perché magari poi scalda si rovina, se le ricordi, la lascio sempre attaccare. Natale invece c'è quello col trasformatore, però altri con la 50 ampere ancora c'è per il testo. No, quello me l'avevo venduto col team, quello da 40 ampere era. Adesso c'è uno switching 35 ampere. Ma di quelli che avevano le cinesi o quelli con gli apparecchi? Quello degli apparecchi ce l'ho, anche quello dei cinesi, e funzionava anche bene da 30 ampere. Oh, e quanto costano? Una cazzata costano. Solo che bisogna sapere i fili da collegare qua adesso. Sì, sarà difficile, io ce l'ho qua, non lo sto usando, capito? Sto usando quello con gli strumenti. E quanto costa però questo dei cinesi? 10 euro, 15 euro, 20 euro, quanto? A dire la verità non me lo ricordo quanto l'ho pagato, ma non supera i 20 euro, tranquillo. Mi dare 12 euro la più bagata, ma non ti voglio dire una fesseria. Ho capito. No, per il discorso dei figli non è un problema. Perché hai parlato del collegamento già? Quale sarebbe il problema? Basta avere un test, perché cosa? Diverse tensioni a Natalì. No, è che non c'è niente attaccato, ci sono i morsetti, ma c'è scritto. Io non ho avuto nessuna difficoltà. C'è scritto dove devi attaccare i fili, perché c'ha una morsettiera, c'ha, e c'ha l'uscita 12 volt più l'attacco alla rete, perché non c'è quello lì in dotazione. Ho capito, no, era quello per sapere se c'era il per sapere qual era il positivo, ma quello non è un problema, perché il positivo si scopre sempre, basta avere un test, oppure lo provi a uno a uno, la boccola la provi a uno a uno e uno sulla carcassa dell'alimentatore, quando si accende vuol dire che hai trovato il positivo, è semplice, no? Ma se ti ho detto che nella morsettiera c'è scritto dove li devi attaccare i fili, non c'è bisogno di nessun tester, io l'ho attaccato così e funzionava, anzi l'ho anche modificato perché la ventola gliel'ho messa fuori invece che bene. Ok, ho capito, allora che, qual è il problema? Quale problema riscontravi tu Gianni secondo te? Io pensavo che fossero quelli che usavano per i computer, capito? Che hanno un mato di fiducia. Siccome prima si usavano quelli, si stavano mettendo quelli, poi dove sei cinesi erano tutto quelli e erano cominciato a fare quelli cinesi. Però prima si usavano quelli che c'erano dentro al computer, c'era il fattore, c'era questo, e l'hanno fatto anche qui. Poi c'era una maturata di video. Quello del computer. quello. E tante volte come sa, anche al computer stesso, sai, in quei cosi, come si chiama, Roger, K, eccetera, tanta gente ha fatto anche delle domande al riguardo, poi l'hanno fatto vedere, e c'ha la carcassa tutta trappolata, così è andata lì. Tutta, la carcassa è tutta piena di buchi, tutta trappolata, fatta apposta così, per il raffreddamento sicuramente. Oh, sembra un lineare. Ma no, non sto parlando di quello del cinese, dei cinesi, sto parlando di quello del computer, dell'alimentatore del computer. Sì, ci sono quelli trappolati e quelli no, che non sono trappolati. Se vuole uno glielo faccio a Gianni. Basta attaccare un virulese alla massa e si buono in moto quando attacchi alla corrente. Dopo c'è scritto nell'alimentatore i fili che devi prendere per le uscite, no? Non ci vuole molto a farlo. Ah, se c'è scritto un conto, no, ma anche prima si recuperava, non qui ricompensa, capito? C'era un bel fatto di uscita da trovare, perché i colori non è che sono rosso e nero come di solito sono tutti diversi colori. Ma te lo dice, 12 volt, tanto per dire 10 ampere. E devi prendere quei due, no? Devi prendere il nero più quello che ti dice. C'è scritto, cioè nella targhetta c'è scritto, ci sono i 5 volt, capito? Ci sono varie uscite. Ecco, lo dico di va bene a fare, non c'è perché lasciare lì. Perché magari fare le prove, trovare qualche apparecchio, tutte queste cose, non per la prestazione, ma per fare le prove basta che. Guarda che ne ho visto costruiti bene di quelli lì, perché i fili glieli toglievano. Tutti quella mazzolata dei figli, non attaccavano le bocche, le frutti, ho fatto due a re. Vabbè, se uno si appende se li fa bene. Non è difficile di fare un mattonato di laviera, e poi li mettendo qualche scappo di laviera e è a posto. Siamo la ventola interna, siamo tutte, quelli del computer. E beh, ma c'è un mustacciolo. Chi era quello? Io te lo riconosco. Una macchina che non so che macchina fosse. Chi è? Eugenio era quello lì. Eugenio, tu sì. Vai, mangiatevi il tarrone, mangiatevi e va. Io non le mangio che sono diabetico, che fa male. Stefano, che macchina era quella? Buonasera, una Tesla. Ah, ma è vecchio, l'ho visto. No, non è qui, no. Ma la macchina si di Stefano, così basso mi arriva. Ciao Giulio, no, sono a casa, e vabbè, forse l'antenna girata, capito? La radio non è in forte, comunque vabbè, già capisco, là. Facendo attenzione, già ascoltando con attenzione, anzi, già capisco quello che dici. Vai, andata lì. È un puttanaro questo Stefano. Ehi, adesso cambio la batteria, aspetta un attimo. Immagina, se fai a 100.000 euro. Quella lì, full opzione la cosa, 170.000 euro, la faccio un gatto. Ok. Cos'era, una fila dell'auto? No, era in esposizione in aeroporto. Ah, ecco. Infatti il simbolo, io non lo conoscevo. Te lo metto io. È un simbolo No, si chiama Tesla, vai a vedere, sì, è nuovo perché sono un penso che sia uscito un qualche anno fa, capito? Ce ne sono diverse, va, veramente bello. Ma costa meno della Ferrari. Lo so, però quella va da sola, non devi toccare niente. No, è da sola. Cioè, ti porta così, ti si deve sentire di destra e ti porta. Tutti i bosi di va all'aeroporto, da di bussa all'aeroporto. Proprio così. Guarda che c'è il filmato, se va nel sito della Tesla c'è il filmato e fa vedere. La usi, cioè non devi toccare neanche il volante quasi quasi. Niente. Macchina mamma ma sai che mi chiami la batteria del microfono, un secondo. Giulio, non hai visto la macchina che c'è la Tesla? No, io l'ultima volta che ho visto la Tesla l'ho risale un paio d'anni fa, per cui se state parlando di una macchina che ha comprato da poco, no, non l'ho vista. No, non comprata, non c'è tutto vecchio, è tutta tecnologica, c'ha un monitor allucinante, con le macchine disegnate dentro, insomma è una macchina che va sola, te l'ha detto sì. assolutamente. E di chi è questa macchina? In aeroporto, così è? Sì, sì, all'aeroporto è esposta, si può vedere. Sì, sì, tutto è vero, te l'ho detto, l'hai fatto vedere l'interno, capito? L'ho messo su Facebook. È una macchina super tecnologica. Sì, ok. Sì, vabbè. Va bene, va bene. Ma davvero, qua ad Alghero, oppure, o meglio, Pratiglia, oppure in Olanda, dove va San Stefano sempre, dove era? A Urbia, dalla strada. A Urbia? Ora, va bene. Andare, io te mando una io, seduto su un cavallo, oppure su un asinello, bene ti va quella. Un po' meno tecnologica, però va bene lo stesso. Cammina a quattro zampe, o già. Quella l'avevo vista insieme a quadrato, quella macchina robotizzata, ho già quella. Sì, quella insieme, però non ricordavo. Allora eravamo diversi CB, eravamo lì al quadrato quel giorno, sì, me lo ricordo, che tu parlavi e la macchina rispondeva. Vabbè, come vedi adesso la macchina cammina da sola, non c'è bisogno nemmeno dell'autista più, non serve più prendersi la patente, va bene anche con la macchina robotizzata, cammina da sola o già. Io lo vedo, io quello che la finisco. E a chi Gianni, non va a rubare Roccio, e poi se arriva Gianni ma tu calli. Ma tu pulu, capita, non so qui, ma da come fa? La canzone Rossetta vuoi fare tu? Io non ho detto niente, è giusto sulle barbarrocci. Ma chi segue la musica sassanese già la conosce quella canzone. Sono passati, il bello barroccio qui tu va. Io mi ricordo già un 55, 60 anni fa, dai, 60 anni fa più o meno. E allora lavoravo lì dalla Fiorentina e mi fa uno molto più grande di me, un certo Aldo Di Stefano che lavorava insieme a me in quelle ultime, però non mi ricordo adesso se è ancora vivo quello buono, se è morto, era molto più grande di me. E a questo punto mi fa, io e Giulio che andiamo a portare la paglia dell'imballaggio, siccome avevamo a parlare, imballati con la paglia eccetera, io che andiamo a portare la paglia dell'imballaggio, dice, da quelli in quell'orto che c'è dietro, dove c'è adesso la fermata dei pullman, lì in quella zona lì era tutto quanto campagna, orti erano. E quest'uomo voleva sempre, l'imballaggio voleva lì, forse lo usava come lettiera, che ne so, per gli animali, non lo so. Il fatto sta, lui aveva una lambretta, di quelle lambrette, la prima, quella monopattino, no? E abbiamo preso un carretto, un fa, siedi dietro, che andiamo con la lambretta. E abbiamo un carretto, no, siedi dietro, tu prendi, io guido la moto e tu tiri il carretto così, vabbè. Siccome il carretto aveva anche il piede centrale, arriviamo davanti alla stazione, Allora, in quel periodo, la trazione all'angolo lì dove c'è la Provvida, o dove c'era la Provvida, c'era anche un fornitore di benzina, c'era lì. E lui, facendo cretino, prende, accelera, come accelerato mi sfugge di mano il carretto, e siccome aveva il piede centrale, avevano questo carretto, ha incominciato a correre già, e c'era parcheggiata lì di fronte a Cappello, proprio lì alla stazione, c'era una di quelle giardinette con le macchine con l'intraiettura di legno, e una stanga del carretto è andata a finire dentro la macchina centrale. Ha sfondato la macchina, questo è deficiente. Io ce ne andiamo, erano le 2:30, le 3:15, cioè, avevo visto solamente quello del fornitore che c'era lì, non so se tu l'hai conosciuto, ma forse tu non l'hai conosciuto nemmeno, il fornitore della stazione. No, non è stato una coesistenza, se trovi qualche fotografia mandala, io ho un amico che ha la passione di queste cose, le cose antiche di Sasha. Allora tu non l'hai conosciuto, vabbè, alla stazione c'era una scalinata, c'era una specie di, col muro di cinta tutto attorno, con le panchine, con i lampioni antichi, solo che i sassaresi erano gli maiali e andavano lì a fare la pipì, poi il comune l'ha tolto e aveva fatto la aiuola centrale proprio davanti alla stazione. No, ma c'era, esisteva uno proprio all'angolo per girare lì al cinema, no, della stazione, proprio all'angolo lì c'era la Provvida, c'era il rifornitore della benzina, lì c'era un rifornitore, un vecchissimo rifornitore, che poi l'hanno tolto e non so dove sia finito, Stata la Provvida, chi è quello? Stefano, tu sì? Sempre io sono, cos'è cambiata la modulazione? No, ho cambiato la batteria, più forte adesso. Non più di tanto, non più di tanto, ma già ti sentivo anche prima. Ma era l'aria un po' odiosa questa macchina, Stefano, in Olanda. No, in Olanda era. Infatti mi sembrava strano che era l'aria un po' odiosa, era una macchina che non c'è qua. Cavolo, dici però cose dell'altro mondo, però non so, perché lì hanno su. L'ho fatta ieri, sono fatte le due se non lo so. Ieri non ha? Ehi. E quanto c'è di moto te? No, sono partito sabato, sono tornato ieri. Ah, vabbè, tutto bello, sarebbe tornare? No, ho fatto, fammi un giretto. Cavaga, a trovare a tuo compa. Eia. Ma dovreste buttare già, vabbè, attaccare la spina. Eia. Vabbè, non c'è più altro per attaccarti, dovrebbe non l'ho posato. Sì, adesso non ho scoperto nulla. È pieno lì. C'erano pochi giorni, quindi non è che avessi molto da vedere, diciamo. Ah, vedere per me è poco. Io già conosco tutto, non devo vedere niente. Però sono andato a vedere nel mercato nero, che c'erano delle cose molto molto vantaggiose. C'era roba nuova a prezzi bassissimi. Insomma, le solite cose, dai. Ma che genere? Apparati non ce n'è, niente. No, c'è di tutto, dall'abbigliamento, le scarpe, i telefoni, i tablet, computer, da mangiare, oro, argento, diamanti, roba del genere. Una volta che vai lì non è che ci vai tutti i giorni, vai lì e fai un bel po' di... fai una bella spesa, diciamo, ecco. Sì, bisogna andare con un furgone, caricarlo e portarlo qua. Sono anni che lo dico io a un sacco di gente, non sono scettici, mi. Sì, pensa che non ci mettono un brio nel lavoro, perché se tu praticamente vai con un furgone, magari ti porti roba sana, ti porti roba tipo formaggi, fare calzava, così, e lo vedi là. Lo so, l'abbigliamento, guarda, c'erano dei Levi's, come si chiama, i Wrangler, e altri, guarda, costava una fesseria, credimi, era da caricare veramente un furgone solo di jeans, dai blue jeans ai, come si chiama, ai giubbotti in jeans, anche quelli erano, costava una fesseria, guarda, credi. E là costava 20 euro a pezzo. Facciamo originale. Certo, certamente, sono nuovi, originali, nuovi, con la targhetta e tutto. Come mai questa differenza? Possono lavare qua o c'è molta differenza? No, non è, sono, è questione che il mercato nero compri la roba a prezzo di fabbrica, capito? Quindi non c'è, cioè loro li vendevano già 20 euro a pezzo, pensa, e già ci guadagnavano, pensa tu quanto li compravano loro. No, tu immaginati, cosa ti posso dire, guarda, una cosa grande quanto la città di Porto Torres, sì, per tanto per dirti, come estensione, tutto, sono stand, tutto chiuso, c'è di tutto, ristoranti, le banche, le poste, vendono macchine, tutto, pezzi di ricambio, tutto quello che c'è da vendere, elettronica, ogni cosa che c'è da vendere, loro vendono ogni cosa. Ovviamente, se tu vuoi prendere in blocco, ti fanno anche lo sconto, capito? E quindi si chiama mercato nero per quello, perché puoi anche barattare il prezzo. Se loro lo vendono a 100 euro, facciamo una cosa, tu puoi dirgli che puoi barattare il prezzo, puoi scendere, puoi vedere un po' cosa ti possono offrire. Cioè, se gliene prendi uno, magari ti fa una cifra. Però se gliene prendi 10, 100 o 1000 pezzi, ti fa un'altra cifra, capito? Ma si possono portare queste cose così, non è che c'è il divieto, no, per portare le cose, che siamo in Europa, per cui ci dovrebbe essere mercato libero, non lo so, ma come mai, non so se il mio Smith, ma tu hai dei picchi negativi proprio impressionanti, non lo so se il difetto del mio Smith o se è la tua radio che fa così. Non lo so, guarda, adesso ho accordato, magari è diverso, confermo. Adesso intanto ho aumentato il segnale e poi è fisso, adesso è stabile il segnale, non c'erano picchi negativi, adesso è stabilissimo. E ho fatto l'accordatura giù, c'ho l'accordatura automatica, non la radio, quindi ho fatto l'accordatura e vabbè, siccome io la uso per altre cose questa radio, quindi non la uso per la 27, quindi non mi ero dimenticato di accordarla, ma se mi confermi che adesso va meglio, d'accordo. No, giuro, tornando al discorso di prima, si può portare, no, siamo in una comunità europea, quindi la puoi portare qui, è roba nuova, loro quando ti vendono 100 capi, 1000 capi, ti fanno una pezza giustificativa che ti dicono: io, tizio Caio, ho venduto a questo 1000 capi di questo e questo e quest'altro, e basta, l'IVA è stata già pagata, quindi non è che la devi pagare nuovamente qui in Italia. Ho capito, appunto, siamo in Europa, dunque anche l'Olanda fa parte dell'Europa, per cui non ci sarebbero questi problemi. Bene. No, perché vedo sempre quel canale 52 oppure canale 49, caspita, è poco, però quelli, sto parlando allora dell'Australia e questi posti così, no, mamma mia quanto sono severi, qualsiasi cosa, anche se pochi soldi, se tu porti per dire 100 euro, tanto per fare l'esempio, ne hai 101 euro, te lo sequestrano, te li sequestrano, una cosa impressionante la severità di qui, di quella nazione lì, impressionante veramente, è troppo severo. Insomma, comunque tutto sommato forse fanno anche bene a fare questi controlli così a tappeto, perché si controllano tutto, anche le scarpe ti fanno togliere e controllano se nelle scarpe c'è qualcosa di illecito, impressionante veramente. Sì, riprendo ancora io. Sì, Giulio, è così, ieri prima il check-in, quando fai il check-in, il controllo di sicurezza è così, quello che hai visto in televisione tu, in Australia e altri, è uguale anche in Olanda, solo che qui in Italia non lo usano, come Alghero o Olbia non c'è, invece lì c'è un sistema che ti controlla, ti fa i raggi e ti guarda se c'hai qualcosa dentro il corpo, capito? Ti fa togliere le scarpe, ti levi tutto quanto, insomma quello che dà fastidio, e tu devi soltanto eseguire i loro ordini, basta, se tu poco a poco ti vedono che sei appena appena contrario, che è strano, quindi ti mettono da una parte, ti controllano meglio da una parte, è brutto anche per chi ti vede, perché lì è pieno di gente, capito? Non ci sei solamente tu, quindi ci sono migliaia di persone che circolano, che passano in quel momento. Poi è brutto che ti vedano che c'è, se c'è qualcosa da nascondere, capito? Ma se non c'è niente, se ti fanno la scansione del corpo con i raggi che fanno loro, ti controllano se c'è e ti mandano via, se sei pulito, capito? Però è giusto che sia così, questo per quanto riguarda l'aereo. Poi se tu devi portare un grosso quantitativo di roba, tipo 1000 pantaloni, 1000 giubbotti, eccetera, e te le porti in furgone, lì non è che ti fanno il controllo, che ti aprono il furgone per controllarlo, pigli e vai e poi torni, insomma. Ho capito, sì. Vabbè, qui è diverso il discorso. Là sono più severi, molto più severi, ti controllano tutto, ti chiedono anche che giorno ti hai tagliato i capelli a momenti, se ti hai tagliato nel tuo paese o in Australia, perché sei arrivato qua, per cosa ci fai, con quali soldi ti mantieni, basta, guarda, ti fanno il terzo grado in tutte le maniere, no? Non c'è niente da fare. Comunque fanno bene, fanno così, non come qua in Italia che entrano cani e pucci e poi lo vediamo cosa succede. Vai Gianni. Che bello, Gianni il caldo. Stavo facendo roba a mia moglie al telefono. Anzi no, Gianni al caldo, non il caldo, Gianni al caldo. Al caldo. Come Gecchi, Gianni, Stefano, che è freddo, come Gecchi? Allora, non c'è sangue freddo, buona di certo. Come le pirinette, come si dice a te, sai già? Ma Giulio? Dimmi. Ma il negozio non ce l'hai più? No, non ce l'ho più. Cioè, ce l'ho sempre, ma l'ho trasformato. Infatti ho visto, sono passato più di una volta, ma vabbè, ok, ho capito, vabbè. Ok, l'ho trasformato, sì, no, ma ci sto lavorando, tutti i giorni sto sistemando, facendo, ma l'ho trasformato, no, niente più legname, niente più falegnameria, tutto a posto, comunque mi è rimasta solamente la possibilità di fare qualche lavoro quando ne ho voglia, se lo voglio fare, perché ma solo per questioni personali, non, cioè per casa mia e basta, non per gli altri, no, niente, nessun lavoro per nessuno, solo per casa mia. Se mi si rompe la persiana me la posso portare lì, me la aggiusto, me la tingo, me la faccio, me la posso anche fare nuova, però per gli altri, per fuori, non faccio più niente, ma già da un bel po' di tempo. Ho capito. Un attimino, devo fare una telefonata adesso, già tardi. Rientro subito. Ok. Avanti Natali, cos'è che stavi dicendo? Cambiando le lampadine, sai, al lampadario. No, stavo facendo cose al telefono di mia moglie. Quindi tanto mi ne vengono e vuoi farli a che cosa. Io non te l'abbiamo fatto giocare a te il telefono. Capita, tu mi lo guardi e lo giochi. Signora Concè, non le faccia toccare di telefono a Natalino, mica quello lì, lui. Ma non mi ha messo la cartella, giusto? Certo, io qua. Concettuzza! Avanti, canta, avanti, vieni avanti anche tu. Cos'è questa cosa? Canta però, che non ci interessa se vedere solo la portante che si muove il lago. Vabbè, non è gara, giù compreso, ciao e vai. Gianni, avanti. Babù, sono chiuso, babù, ciao, chiudo, me ne vado giù, ciao. Andando, stai giù. Io stavo facendo cosa al telefono di mia moglie, capito? Magari Gianni si è spostato. Appunto, se non parlate, cosa ci sto a fare qua? Me ne vado giù e mi guardo la televisione. Oppure mi accendo il computer. Ah, mi ci sei? Sì, già ci sono, mi sono dato la tira da mia mamma. Oh, grazie. E quindi ci stai lavorando? Sì, è logico, sto sistemando. sto sistemando. Adesso abbiamo, ho iniziato a imbiancare. Tutto pronto, il tiratore di fili, tratti e fili, stiamo già imbiancando, abbiamo fatto già un pezzo, sto sistemando un soppalco eccetera, poi perché bisogna adesso sistemare tutto quello che ho, no? Perché mi sono creato due soppalchi, uno all'interno e uno quello che c'era prima, ma quello che c'era prima lo devo fare bene, no? Non posso farlo come ce l'avevo io, lo faccio come si deve perché deve essere presentabile. Trattandosi di un ufficio, ho capito già. Ma tutto l'ambiente hai fatto l'ufficio oppure la parte? La metà e metà. Perché ancora ho delle macchine all'interno che posso anche lavorare, volendo posso anche lavorare, però non farò più niente a nessuno, nemmeno agli amici, a nessuno. A nessuno, sono cose mie e basta. Quella l'ho regalata, mentre le altre le combinate, quelle c'è dall'interno, sì, sono un po' stretto, però per quello che poi devo fare per me, eventualmente va sempre bene, posso sempre arrangiarmi, non ci sono problemi, però tutte le cose piccole me le metto nel suo palco, ho capito, anche pezzi di legname buono che è un peccato buttare, eccetera, ho messo tutto quanto nel suo palco. Dunque mi creo spazio in basso, no? Trattandosi del fatto che, che ho ridotto il magazzino alla metà. Ma invece tu dici, è stata sorpresa di farsi solo una parte piccola, diciamo, un ufficetto per farsi le cose su e basta. È abbastanza grande viene, altro che è bello grande, no, non ci sono problemi. Abbastanza grande, ripeto, stiamo imbiancando, poi appena imbiancato facciamo un piccolo massetto per fare il pavimento nuovo e lì poi si può anche trasferire. Con Antonello mi sta dando la mano, siamo io e lui, abbiamo fatto veramente un bel lavoro, veramente un bel lavoro, guarda, tutto ben finito come si deve, non pasticciato, no, fatto come si deve veramente. Ma dove lo sta per lavorare? In pensione? Sì, Antonello è in pensione, sì, 7 anni o anche 8, solo che stava lavorando sino a 4-5 mesi fa, poi si è dimesso dal posto dove stava lavorando perché era morta la superiora, no? Diciamo così, la suora che è quella che comandava, e l'hanno cambiata, ne hanno messo un'altra, e quest'altra deficiente gli voleva ridurre lo stipendio a metà, e hanno detto no, ciao, arrivederci, grazie, se n'è andato. E ha fatto questo, tanto sarà già fare di tutto, Antonello, ti piace di quasi 90? Antonello è uno molto eclettico, è uno che si arrangia a fare un po' di tutto, per cui non ci sono problemi. E soprattutto è uno che ha voglia di fare, voglia di lavorare, perciò questo non si discute. Ma per dirti, no, dopo 17 anni, 17, 18 anni che era lì, in quell'istituto, solo perché è deceduta la madre superiore, che c'era lì, l'hanno cambiata, è venuta questa deficiente e gli voleva ridurre lo stipendio a metà. Che si sta, andando, ma cosa di qui, che sono, gli voleva dare meno di quanto prendono gli extracomunitari qua. Non lo so più, dimmi tu. Magari mangiarsi via, l'ho detto, ma quelli che abbiamo con 7:30, ci rimane niente. No, ha fatto questa, c'è la pensione che dobbiamo far fare, che era stata un po' grande, lo faceva, ma è visto che si andate voi lì, mi danno un po' di ha fatto da andarsi. Infatti, e chi glielo fa fare? E che ha una pensione, ha una buona pensione, per cui sta bene, non ha bisogno di continuare. ci andava, perché intanto perché quella madre che c'era prima, la madre superiore che c'era prima, l'aveva in un certo senso anche costretto a trattenersi, a rimanere, nonostante che era nelle pensioni. Dice, no, volevo ci abbandonare, come fai? Tu qua ci sei tanti anni, noi con te ci troviamo bene, eccetera, eccetera. Poi è subentrata questa deficiente che gli voleva tagliare lo stipendio a metà, ma tenandolo. Ha preso e se n'è andato senza stare lì a perdere molto tempo. Se n'è andato subito senza discutere, senza niente. No, guardi, lei a me non mi prende per molto di fame, che io ne ho bisogno. Ha preso e ciao, arrivederci. E adesso si trovano in difficoltà, adesso stanno cercando uno che possa fare lo stesso lavoro che faceva Antonello. Già, ma non lo troverà mai, mai e poi mai lo troverà. E ancora qualche era anche disponibile andare di notte. Antonello era disponibile sempre, tutte le ore del giorno e della notte, a chiamarlo alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, perché magari era deceduta la vecchietta e avevano bisogno di una mano, per dire, no? Tanto per, di Natale, tanto per fare un esempio, a quella gli saltava in mente, voglio andare, non so, in un paese, lui l'accompagnava in un paese, e nel giorno di Natale, o di Pasqua, o di Capodanno, o di Ferragosto, per dire, no? Queste ricorrenze così, domenica, sabato, a qualunque ora. Grandi. Andava, gli portava l'acqua da tempio, gli portava l'acqua, perché l'acqua di Quaglia, lo sai che è uno schifo, andava alle 4 del mattino, riempiva roba di 30-40 milioni, riempiva e gli portava l'acqua come si deve. E chi è che glielo fa questo lavoro? Oh, nessuno già. Ma infatti no, non ce l'è. Poi Antonello è da giovane che fa queste cose qua. Lui mi ricordo con Celestino, ci avevano affitturato tutta la casa di mamma, e mangia dei qualche anni si fa, io. Erano lui e Celestino, l'unghio di Andrea Oceano. Già lo so, già lo conoscevo io quello. Sì, già lo so. Per dire, no, faceva l'autista a tutte le ore, il giorno e la notte, senza conoscere né giornate di presenza, di nulla. Non sto dicendo, lo chiamavano di Pasqua, così oggi, giornata di Pasqua, lo chiamavano, vieni che devi andare, che mi devi accompagnare, capito? La loro comunità, come uno schiavetto, è così di Natale, è così sempre. Faceva l'autista, faceva la spesa, tanto prendite di una, no? Andava, faceva un carico di spesa lì alla metro, e dava, che so io, 200 euro. La spesa però della lista che gli faceva magari saliva a 500 euro, e Antonio gli metteva di tasca, le aggiungeva, poi magari gli restituivano, questo sì, ma intanto per quale motivo? Tu sei scemo, c'è tanto 200 euro, tu fai una spesa di 200 euro, chi te lo fa fare a te a togliere i soldi da tasca al tuo portafoglio per la comunità loro? Capito come faceva? No, faceva il giardiniere, faceva dava la mano nella cucina, faceva qualsiasi cosa intorno, con riparazioni, tinteggiatura, finestre, persiane, cose che non faceva, tutto indistintamente. E poi gli vuoi tagliare lo stipendio, ma tu sei macchiavello, sì, quella è donna scema. C'è il posto per 18 persone, solo donne, però adesso ultimamente sta andando in crisi quell'istituto, ci sono solo 6 donne appena, da 18 ce ne sono solo 6, perché evidentemente il trattamento non è più come prima. Tu pensa che prima andava alla metro, comprava alimentari di ottima qualità, comprava a Antonello, adesso sai dove stanno comprando? Da coso, da Giompina, da quel negozio di cacca che c'è, tutta la cosa guarda, per dire, no? Adesso stanno comprando lì, perché ha trovato quello che glielo porta direttamente all'istituto, quello che chiedo, capito già? ma non puoi paragonare tu la cosa della metro con quella di John Pindaro, quello Cibus o come si chiama. Sì, io non ho mica fatto la figura di altre vendita. Praticamente ha comprato le bomboniere per la crescita della figlia. E ho visto che c'erano conflitti, tutti colui, eccetera, eccetera. E ha fatto le bomboniere, ci ha preso il punto quando se ne faceva fatte lì le bomboniere. Ha messo questi conflitti, infatti sai, c'è sempre quello che ci rimane i conflitti, dice che erano duri e la fa. Sono duri, dai, tutto pieno di sporcizia, anche i topi dentro hanno visto, la gente che mi ha visto, che mi ha detto, dice, c'erano i topi dentro, ma tenande, eppure non sappiamo che elemento è quello, o i, lasciamo perdere. Ma per dire no, si può immaginare, caspita, adesso che razza di alimentazione le sta passando a quelle donnine, a quelle donne che ci sono lì, quelle sei donne che ci sono. Proprio, poi dicono che si, gli extracomunitari, sono trattati benissimo a confronto con quelle. Sono dei siciliani, capito? Sono dei siciliani, perché diciamo che non si accontentano di quello che gli fanno da mangiare. Cibo cattivo, loro protestano, capito? Se no c'è dopo di tutto. Mi pare che ci siano messi anche a picchiare gente, non lo so perché. Una volta ci sono messi a bloccare, sono lasciato dopo di tutto, proprio dove c'è il Bibbio, sono imbigliati, però davanti alla cantoniera ci hanno fatto tutto. Sì, già lo so, quelli protestano sempre, già lo so. Quelli che poi non è vero, già sono trattati bene, almeno per mangiare sono trattati bene, no? Sono cibo cattivo per loro, perché sono loro, sono abituati a mangiare con le mani. Non hai visto quante volte l'abbiamo visto in televisione, sembrano tanti maiali mangiando nel loro paese, mangiando con le mani dentro quella specie di ciotola, a base di mettere schifo. Padre, abituati a mangiare quelle cose lì, le dai mangiare come si deve e non apprezzano, lo sappiamo, no? Come noi purtroppo è così, ma comunque appunto stavo dicendo, e lì era voluto bene veramente Antonello, ma bene, non solamente dalle suore ma anche dal personale, perché ci sono anche le altre persone che ci lavorano, tipo le cuoche che ci sono, le donne della polizia, tutte queste cose qua, per dire, pensa che lui aveva lì una quindicina di gatti, ci sono in quell'istituto, no? Queste suore non si azzardavano a comprare una scatoletta o a mettere un pochino di pasta ai gatti. Ci pensava Antonello, di tasca sua, andava, gli comprava il mangiare lì alla Cobbe con gli altri negozi, per darlo ai gatti che ci sono e al cane. Ma per dirti no, loro non si azzardavano a comprare niente, nemmeno a mettergli appena di pasta avanzata, niente. Lo cane di Antonello, già lo credo, soprattutto quello sotto la cutia, come si mette, non mi ricordo, comunque è tutto a nome di Antonello, è il cane di Antonello, sì, tutti i giorni lo fa correre, lo porta lì verso la Budi in fondo, sino al parco, arriva. Lui si fa la passeggiata e il cane dice, lo vedi correndo da una parte all'altra, è una cosa meravigliosa. Sì, ci siamo conosciuti, ci siamo incrociati quante volte in Valdetta, passava lì col cane, io col mio di Corsù, ci siamo incontrati qualche volta. Ma pensavo che fosse dell'istituto, perché lui, siccome lo conosco, pensavo che ci prendesse cura del cane, ma che fosse dell'istituto. Sì, no, è suo, il cane è suo, per cui se l'ha portato via, ce l'ha lui a casa, lo mantiene bene, anche da poco l'ha portato al veterinario, poi lo controllare, non aveva niente, ma l'ha fatto controllare così per precauzione, cioè no, lo tratta bene veramente, sempre bello pulito, proprio un bel animale, veramente, guarda. E poi ci non ci tiene, io ne ho lo stesso. Questa che io ho chiamato in Germania per ordinarvi la pettorina col nome suo. beh, anche quello è bello, fare anche quello è bello. Sì, ma è così. E poi lo sappiamo, l'attore no, una persona seria, non è un pringuello qualunque, è una persona seria, è uno di famiglia buona, eccetera. Per cui adesso domani va in paese, domani non ci vediamo perché va in paese, perciò domani sono da solo, continuando in bottega. E siccome lui ha una casa lì in paese, no? E credo che la deve vendere, cioè, forse all'acquirente, non lo so, e andrà per quel motivo, non lo so. Di dove è Antonello esattamente? Di dove è lui? E lui è di Sassari. La moglie è di Tresnulare e dunque va lì, va in paese lì, a Tresnulare, hanno una casa di roba di 400 metri quadri, 200-220 per piano, ti puoi immaginare, con prezzo di terreno eccetera, e credo che lo stia vendendo. Ah, ecco. No, pensavo che fosse anche lui del paese, non ce l'ho arrivato anche così solo. Beh certo, e se lo vuole prendere perché dice è troppo lontano, anche se sono 105 km da Sassari, per cui dice cosa me ne faccio? Questa casa è chiusa e devo pagare l'IMU, devo pagare la tassa mondezza, devo pagare, perché gli fanno pagare la tassa mondezza nonostante che è vuota, gli fanno pagare ugualmente la tassa mondezza. Perché? Perché in base alla famiglia sua dice quante siete voi a casa? 4, e allora e deve pagare in base a 4 persone, nonostante che la casa del paese è chiusa, è disabitata, eccetera. Capito? Non lo so. Ultimamente mi è arrivata questa lettera che non hanno pagato la tassa mondezza dell'anno di 2 anni fa, mi pare. Non mi ricordavo di dove avevo messo la cartella perché c'è tutto catalogata. Però alla fine l'ho portato, l'ho provata, ho preso, ho cercato l'anno che l'avevo pagata, sono andata con la cartella di prima, ma ne devo di subito, non sono di tanti miei, ma ne devo loro. Lo so. Lo so, ma non l'hanno mandato un sacco di gente, e l'hanno mandato, l'avevano mandato anche a me, quando sarà un anno e mezzo fa, 2 anni fa, e sono andato, gli ho portato tutte le ricevute, mi chiedevano il 2014, mi sembra il 2015, mi chiedevano, la tassa mondezza del 2014 e il 2015, e io gli ho portato tutte le ricevute, non dal 2014, no, ma anche prima del 2010, tutte, sino a quelle del giorno appunto che gli ho portato, sono andato là, allora l'ho controllata, sì, va bene, apposta, arrivederci, io lo guia, 450 euro all'anno di tassa mondezza già, non lo so io, capito? E allora mi stavano cercando, il 2014 e il 2015, questo è davvero. Tu immagina che se tu non sei in grado di presentare le ricevute, devi pagare, ti fanno pagare per forza. Ma noi siccome conserviamo tutto qua, problemi non ce ne sono, capito? Sì, anche io faccio così. Allora io praticamente ogni 10 anni non le butto ma le metto, le tolgo l'altro dentro perché ho una specie di scatola dove le metto dentro, con coperchio e tutto quanto, una scatola di plastica. Le metto lì dentro le cartelle, le catalogo tutte con il nome scritto, ricevute ricevute Cotonino, ricevute quello. Aspetta un secondo. Aspetta lì, se non fai break non ti faccio parlare. Se non fai break non ti faccio parlare. Fai break, aiuto. Fai break adesso, se no non parli. Ma allora non mi senti, ho detto break. Ma ti sentivo male, con una radio brutta. Allontanati dal microfono, che tu vai la voce grossa, vai, che è già il microfono è già cupo. Se tu ti avvicini allora non si capisce. Non ho capito, è più lontano di così. La musichetta ti hai messo, che ne devi vendere, tu puoi sapere. Ho la televisione che stai, cos'è? Mia moglie con l'altro computer. Perché il microfono è sensibile, dunque si sente tutto. Quasi si sentono anche le macchine che passano lì in consorzialità. sono per amore tua. Perciò, vedi bene. E così è. E beh, ma tu non stai uscendo da lì? E io dove vado? E ti fai un giro, ti fai il giro di Sassari, ti metti i pantaloncini corti, le scarpe da pulizia e ti fai un giro, ti fai tutto il giro di Sassari. Guarda, tu parti da Corso Trinità, parti, sali in via Lomberto, sali, passi davanti alla caserma dei pompieri, scendi tutto via Napoli, poi arrivi alle Conce, arrivi con Corso Vico totale, le mani sono 10 km. E quando hai fatto un paio di volte, quello allora stai bene, ti alleni. Non muori prima. Non muori, se non vai, già ti baserei, non ti preoccupare. Allora vedi che come trovo appena di salita non posso più camminare, che mi fanno male le gambe. Sempre detto, nella vita conviene avere sempre 20 anni, quando uno ha 20 anni è in piena salute, per cui va bene. E allora, così è andata lì, non ti male. Lui comincia a diventare dopo i 40, 45, 50 e così via, e allora comincia a pesare anche a camminare a piedi, e poi adesso siamo troppo abituati bene, perché camminiamo sempre in macchina, possibilmente, ad esempio ieri, tanto per fare un esempio, stavo scendendo lì davanti alla chiesa nuova della Teroce, no? E vedo una fila di macchine, mira attende, e c'era questo che voleva entrare, deve essere direttamente in chiesa con la macchina, ma quando mai, dico, caspita, come fai tu a voler girare lì davanti alla porta della chiesa, se vuoi parcheggiare? Ma vai, dimmi, se entra in chiesa, gira nella stretta che c'è lì prima, e parcheggi lì e poi ci vai a piedi, no? Io del Picento ci ho fatto stare, 4 ore avremmo, perché? Perché c'era una fila di macchine che è interminabile, e lui doveva girare lì per entrare e fermarsi davanti alla chiesa. Ma dimmi tu, per dire, no, la gente vuole entrare in chiesa, anche in chiesa con la macchina. Però per me la maradia non mi piace camminare. Io fino al 2007 ero un toro, anche dopo il 2007, però dopo mi sono aggravato e non riesco più a camminare. Avevo una resistenza, mi fanno male tutte le gambe a me, come salgo, come faccio appena di salita. Sentite cosa ti sta dicendo, signora Concetta, la mandronia ha detto che... vabbè. Tu ti porti il cane al guinzaglio, così lui ti tira e ti aiuta. Poi senza ragusti, magari fosse così. Allora vedi, tu sei ignorante, Concetta, sei ignorante quando va a venire. Più sedentario sì, e peggio è la situazione, perché la situazione si aggrava sempre di più. Se invece riesci a voi fare 100 metri, adesso ti ripuoi 100 metri, ti ripuoi e ne vai a terzo a bui di 10 minuti e così via, però diciamo che è meglio muoversi, perché se no, soprattutto per la circolazione, per la circolazione è importantissimo il movimento, soprattutto camminare, non è che devi gurrire, cammini passo, cammini piano piano, se mandini, però quello è importante, perché riattiva bene la circolazione, capito? E la malattia mi ha pigliato all'acqua e non venuto a arrivare. Io non lo porto il cane in giro, già cammino, non è che non cammino, però se io trovo appena la salita, subito mi fanno male i polpacci, subito. E allora mi devo riposare, no, non ce la fai. È così. Purtroppo, è così. capita, avrai appena 60 anni. Cosa dico, posso dire allora che nasce subito 66? Capita. Eppure ancora, grazie a Dio, già me la sento di fare qualcosa. Tu mi avrai detto, ma tu non fai nada, questo problema, sì, d'accordo, tu non lo fai problema. Per Dio no, però io mi sono sempre dato a fare, mi sono sempre mosso, non è che mi sono mai rimasto, vabbè, che ho lavorato direttamente un paio d'anni fa, lavoravo proprio per la famiglia, per mangiare, diciamo, per essere chiari, chiari. E nonostante che adesso sono già da un po' di tempo senza lavorare più in bottega, però sempre faccio qualcosa, vado in bottega, cammino, faccio, avanzo con venire proprio camuno, dunque meglio di così, e tu lo sai, fare il muratore è pesante, non è certo come fare il falegname, no? Già l'ho fatto anche io il muratore a suo tempo, e commenti? E blocchettarisi, ma giù che arrasi, e io perché non ho lavorato fino a 2 anni fa, pur malato, e io mi lavoro a fare, pur si non vira vasivo, travagliavo di mazzetti, altro che... Certo, quello sì. Vabbè, vediamo se rientra Gianni. Gianni, ancora telefonando, sì. Oh, Gianni, si è sceso dentro il telefono, mi. Gianni! E adesso chissà con chi sta parlando. Con chi sta parlando? Mi, o si è addormentato oppure, perché poc'anzi mi ha detto che le stavo prendendo la biocco. Sì che, oppure sta parlando ancora al telefono. Vabbè, dai. Adesso sai cosa faccio. Allora basta il computer. Ciao Giovanni, ciao Natalia, ci sentiamo, ciao, alle prossime. Grazie per la chiacchieratina. Adesso me ne scendo giù e mi accendo il computer. Mi leggo tutti i giornali d'Italia. Anche il giorno della chiesa, come famiglia cristiana, anche quello mi leggo adesso. Tutti me li dico, va. Tutti è usciti. Vabbè, grazie della chiacchierata, buon proseguo. Anch'io adesso aspetto un po' se arriva Gianni, se no me ne vado più di via. Ok, bravo. Ciao Natalia. E provo a passare sul 23 se c'è qualcuno che fa la chiacchierata lì. Bravo, ciao Natalia. Grazie a te la chiacchierata. Ciao. Saluti in casa, ciao. Ciao Gigi. Buonasera a tutti, ciao Natalia. Oh, ciao Gianfranco. Ma Claudio che fine ha fatto? Non sente più. Sì, Claudio, no, né visto né sentito più, neanche io. L'ho detto io. Ho detto io, quando si va in pensione si inizia un po' a rimbambire, senza offesa per nessuno ovviamente, però sono tutti così, dopo il primo entusiasmo poi passa la fantasia. E questo è quell'MB+4 che gracchiava. Cosa hai fatto? Hai cambiato la capsula? Io ho messo la vecchia e sembra che stia andando. A voglia, fa un'altra cosa. Evidentemente ce l'hai messa una che non andava bene o che ci aveva qualche problema all'interno, perché ci sono quelle gamme difettose. Ma... A proposito, tu anche io sto rincoglionendo, mi sono dimenticato di accendere il riscaldamento. Infatti c'è un cacchio del freddo, vecchio. E tu accendilo, io già me l'ho acceso poco fa. Ecco fatto, ma non è scalda subito. E niente, quindi si tira da un po'. Ufa. Se no a metà l'ho messo il microfono, speriamo non sia troppo alto. No, a me sembra che vada bene, non sento particolari problemi. Ma cosa cari, qualche gatto? Perché sente una specie di miagolino. No, c'ho il cane. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Bisogna aspettare, c'è stato solo lì. Solo, si sente. Natalie, procurare un gatto, così si diverte. Ce l'aveva una gatta, ce l'hanno ammazzata. 5 minuti, non usciva mai questa gatta, poverina. E l'ho trovata lì morendo, in strada. Sì, addirittura. C'è gente così, scusa, delinquente. A meno che non si abbia mangiato cosa fare lì, che mettono per i tutti. Ehi, allora, qualche boccone gli hanno messo, poverina. 12 anni ci aveva, era così bella. E si giocava con lui. Alvin, come sta facendo? Vorrà uscire forse. Niente solo, e anche loro hanno bisogno di compagnia. Gli animali ti parlano, a volte siamo noi che non li capiamo. Se si sente solo, cosa vuoi dire? Ma non è sempre che lo fa. Ciao, la sta sera. Mi ha lasciato. Sono guai sì, quindi. Ma non è che sia male, no? No, che non c'è nulla. Adio, scendiamo. Vieni, prendi il giro. Adio, vai. Forse vuole baciare il buio. Solo che adesso c'è già il buio, nonostante sia aumentato molto, molto le ore di luce, però c'è un freddo da tremarsi, sicuro. Sta anche piovendo un poco fa. Perché a portare l'ha già portato. Se non è che vuole tornare a scendere, adesso vediamo un po'. Lo porta mia moglie. Perché anche loro a stare in casa non è, poi hanno bisogno di fare le loro cose, quindi hanno necessità di uscire. E io la mattina lo porto io, gli faccio fare un bel giro. Tanto è un cane tranquillo, no? Lo tiene al guinzaglio, se c'è gente. Chi è che chiama avanti? Che succede? Già ce n'è, ogni tanto ce n'è di più, ogni tanto ce n'è di meno. Buonasera comunque. Gianfranco, la stessa periferia è natalino. Chi sei? Non ti sento molto bene. Lo senti natalino? Ho sentito bisbigliare, Prima lo sentivo meglio, adesso no. Forse si sta avvicinando un altro temporale. Alle 2 ha fatto 2:30 in quel temporale qua. Ma cosa volessi dire? Io ho sentito bisbigliare poco fa, però non era comprensibile in quello che dice. Vabbè. E poi Natali non è ancora risolto con la questione là delle antenne, non sala di quelle cose lì. Sì, con questo tempo come fai? Già risolveremo. Perché rispetto a una volta quando c'avevo l'antenna, comunque in ogni caso adesso è migliorato parecchio. Tu c'hai l'antenna sul frigorifero, credo? Sul frigorifero, c'avevo l'antennino della macchina, ragazzi. No, adesso già va più, già va molto meglio. Va molto molto meglio. Magari per esitare il TV hai, si dovrebbe alzare un pochino, in modo da evitarlo. Mettere un buon cavo schermato, solo se quello c'ha la televisione in quel modo, mi ha voglia di già. Già c'è il 213 io, nuovo, l'avevo messo, figurati, è che basta l'antenna, però non dipende dall'antenna, ma cosa, ci hanno gli impianti messi male. Purtroppo così, e lì poi non li curano, non ho capito, credo che le cose siano eterne, non lo porta mai adesso, lo se ne rimetta, ma poi c'è con questa acqua che è acida, tutte quelle cose lì, dopo qualche anno oramai con queste antenne che stanno vendendo si fatigheggiano, anche il cavo, a me a volte il cavo mi rimane in mano, figurati, perché il sole lo brucia proprio. Allora sai cosa mi era successo una volta in campagna? Avevo un'antenna tipo questa qui. Beh, allora sai che è diventato proprio dove attacchi l'antenna, il piede femmina praticamente dell'antenna, si era marcito, me ne è sceso il cavo in terra. Quelli sono gli effetti delle sbarre termici anche, caldo freddo, prima o poi qua di roba vogliono e sfasciano, anche gli isolamenti, tutto. Io figurati non uso neanche le 213 perché non servirebbe a niente qua, perché le distanze sono grandi, quindi anche per l'antenna della 27 io uso cavo quello buono, molto più buono del 213. E quindi però con il PL con quella cosa lì ogni tanto devi controllare, revisionare, fare in modo che non entri acqua, non entri in vista, se no dura poco. Si era proprio marcito, ma nel senso il 213 in terra, dimmi tu, ho dovuto buttare via. Infatti, ma non male, guarda che ho messo la... adesso c'è una Game Master, prima c'era la Mantova 1, quelle le prime, però dopo un po' ci ho dovuto rinunciare anche a ripararla quella, perché si è talmente corrosa, l'alluminio poi fa quell'effetto brutto che si incolla, no? Che non c'è stato verso, la tiravi giù, era pesantissima, quindi ho detto forse è ora di metterla a parte. E ci ho messo quella lì che è in fibra, e quindi sicuramente dovrebbe risentirne di meno, anche se il problema di quelle lì, così come quelle per VHS, VHS, è la condensa, capito? Che si forma lenta. Speriamo che ci abbiamo fatto qualche buchetto di scolo. E quella costava pure l'antenna, quella di Master, costa pure. E io ho la Mantova 5, che quando me ne sono andato 2 mesi, ed è sopra un palo d'oro di civetta in campagna, dimmi tu, e se ne sta ridendo. Magari è tutta la marcia adesso. No, è perché... Ciao Gianni. Gianni, sei tu? No, che come no? Buonasera ad amico, che c'è già un franco, c'era un telefono, adesso sono rientrato. No, ma tali non penso, io capisco, tu dici a casa è marcita ancora, ma dico che tu l'hai messa molto dopo di me. Io 12 anni ce l'ho già, non sai quando l'ho piazzata io, già te lo ricordi? Ho messo a ventare, non lo so. Solo che è in campagna. Dovesse messare la salsedine, il vento di salsedine. In campagna mia è tremendo, un'antenna come quella che ho io adesso, mi si è marcito il piede femmine dell'antenna, marcito proprio, me ne è sceso il 213 in terra. Quello anche della Mantova mia, l'ho cambiato, con la piastrina l'ho messa a piede, quella lì l'ho cambiata e l'ho messa in acciaio, l'abbiamo fatta in acciaio con Fabrizio, l'ho messa in acciaio. Sotto un palo da 20 metri e poi ci sono le tappe ma io sbaglio che pagano, ma perché non si sta in questa invece si chiama vetrificati, danno fastidio poi quando ti si mette, se non usi i guanti guai. Adesso questa che c'è la cosa va a Green Master, devo dire che nonostante sia un tipo di antenna senza radiali, comunque hanno fatto un buon lavoro, pare sul vento, è tranquilla, è ancora un po' bassa, però quindi c'ha, seconda delle zone c'ha, c'ha anche degli alberi in mezzo ai piedi, però ma l'estensione di banda è notevole, va, va abbastanza bene come antenna. Dai. Ecco, scusa, come antenna, c'è tra l'autocostruita tu oppure è ordinata? No, l'ho, l'ho ordinata, perché le antenne così non mi piace costruirle, anche perché poi quando l'ho comprata non c'avevo un tubo particolare, che è quello, poi se te la costruisci è difficile impermeabilizzarla, capito? Ci vorrebbe il tornio per fare gli attacchi in metallo, in modo da, da farlo senza attenuta, in parole poche, anche con le guarnizioni. Quindi no, poi preferisco farmi, infatti oggi ne ho fatto un'altra, un'antenna, farmi un'antenna per alta frequenza, quelle sì, quelle le faccio tutte io, perché quelle che vendono proprio fanno, fanno tutto lo schifo, sono testarate, sono rendimenti ridicoli. E in questo periodo infatti ogni tanto, anche ieri, non l'ho finita oggi, no, devo solo collaudare, ho fatto una direttiva, però comprarle no, costano un pacco di soldi e poi ti danno delle visioni, mentre invece così con roba riciclata va meglio, hanno fatto una WTF che è uno spettacolo, è qualcosa di meraviglioso. E così. Guarda, la verità non ti so rispondere, non dovrebbe, penso, perché insomma, flette sì, ma non tantissimo, probabilmente dipende più tanto dal tubo. Io ce l'ho a 30 metri, quindi anche se, se fa rumore non lo sento ovviamente, anche se qua, anche perché ci sono tanti di quei fischi quando c'è il vento, tu figurati che mi entra un fischio micidiale anche dalla porta, ci ho messo la gomma, cioè, ma secondo la prende in pieno sulla porta d'ingresso, quindi fa quei fischi tipo uragano, è un po' difficile da, da evitare, però delle antenne onestamente sono anche quelle, quelle poche che ho sul tetto, no? Non hanno mai dato fastidio. No, io già volevo cambiare, ma tanto per me non è che rimasta la mia, e questo c'è per la mia, ne ho preso due già, adesso ne devo prendere altri tre, cazzo, legati con la vetta, con la pelle lunghi, con la rossa grossa, minuziosamente fatto bene, cazzo, intanto ce l'hanno fatta la stessa roba. Guarda, non vuoi parlare, perché proprio ieri mi hanno fatto uscire gli occhi, mi hanno rotto un'antenna che è anche difficile da trovare, tra l'altro, perché lavora un'antenna ferrurara, mi hanno fatto un danno, l'hanno tutta incicciata, è una cosa micidiale. L'altra volta le ho viste che erano addirittura sulla 510 nella punta, muovendola, insomma, stavo facendo dei danni altamente allucinanti, mi hanno proprio, cioè mi costringono a batterle, a me non mi piace spariare, cioè sparare agli animali, però a un certo punto se fanno questa sto danno e adesso per riparare quel danno devo scendere tutta l'antenna alla 510, devo abbassare dei tubi d'almine di 20 metri d'altezza, quindi ti puoi immaginare la fatica e il casino che devo fare, salire sul traliccio per togliere le sicure, che è alto 10 metri, c'è la scalina tipo quella edilizia, quindi finale, bisogna stare attenti perché quando c'è un decivolore, insomma, un casino veramente hanno fatto. Se ce l'hai così in alto l'antenna, Gianfra? Quelle per la frequenza, sì, quelle sono molto in alto, sono intorno ai 20 metri, perché il traliccio è all'incirca di 10 metri, lì ci sono le sicure, poi c'è un altro tubo da 10 metri, ci sono i fermi, ogni volta che lo devi buttare a terra, siccome si inclina tipo catapulta, no? Perché sono i contrappesi, con le corde largano, piano piano scende, però è un lavoro da fare quando sei certo che c'è una bella giornata, che c'è tutto il materiale, perché non è uno scherzetto tirarla su via. Ma cavolo, finché lo faccio perché si rompe qualcosa mi va pure bene, ma se la roba te la sfasciano queste cornacchie. Ieri l'ho trovato su un palo dove ci sono le telecamere che lo stavano muovendo perché erano in punta, e questo è a parte quello che ti fanno sui pali, no? Che è anche acido. E poi anche come a terra, come le collano, fanno un casino che viene e basta. Questo è un problema. Ma la carabina comunque, siccome non posso usare roba rumorosa ovviamente, anche se la carabina non è scherza a rumore, ce la fa a buttarla a terra la cornacchia? Secondo che carabina è e secondo a qualche distanza è, capisco, l'hai già fra. Io già c'ho una 22 che il rumore ne fa poco e imbatti un bel. Ma non sposare qua, capito? Perché un po' più in alto c'è un'abitazione, anche sparando verso gli alberi, poi in parabola discendente, la 22 c'ha una portata piccola dal punto di vista utile, però poi anche se a 200 metri ti arriva una palla nell'occhio, si fa nuovo, capito? Che finisce in galera come niente, quindi è meglio non usarla. Qua ci abita gente, non fa, anche se è una campagna grande, quello quello che vuoi, però la carabina invece c'è almeno un telescopico, quindi quando spari c'è un ampio margine di pescare il punto in cui spari, l'obiettivo in cui spari, però ovviamente è molto molto meno potente, diciamo che a 15-20 metri ti rompe una bottiglia, ecco. No, già ce la dovresti fare ad abbatterla. Si è mandato la decisione di prendere una e attaccava la mano, quindi non so che tirare più. Ma no, perché c'hanno la mania delle punte, mica di spazio ce n'è, mi posso fare quello che voglio, ma poi sporcano, anche i pannelli solari sono tutti imbrattati, un macello, sono tante poi. Allora non c'è una macchina, cosa abbiamo fatto da me? Abbiamo fatto a pezzettini, una stagia più piccola che c'è l'antenna accesa, abbiamo messo un tappo, io un tappo per coprire il buco dell'antenna, in più lo avevo tutte le cose silicone in nero per coprirlo, perché era dorato il tappo e non mi piaceva, argentato secondo me. Ma pensate a questo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo proprio tutto il silicone, si è messo una cornacchia sulla macchina, l'ha fatto tutto a pezzettini. Piccoli, ho detto perché il tappo e me ne ha tracciato il tappo, capito? Poi cosa ha fatto? Mi ha fatto una cagata lunga dalla capota sino al lato dello sportello, ma questa c'era una cornata. Cosa va a fare? Io l'ho capito subito che era una cornata, poi quando mi sono tagliato ho detto guarda, più che quella ora è quella una via, ma è difficile da dare la cornata che fa queste cose, anche i fili del televisore, queste cose si rimane. E poi già io ho visto che qua stanno sempre diventando più prepotenti, no? Prima ormai nel primo periodo ci stanno attenti, poi diventano sempre più adacci, aspettano la piazzale per rubare e mangiare degli altri animali. Anche se vedono il gatto mi sa che c'è un po' di paura, perché sono anche violente, soprattutto quando si avvicinano verso l'albero dove c'è il nido, scendono giù e fanno scappare. E collegano via la corrente all'antenna, in modo che quando si posano sull'antenna rimangono belle cotte. Non le fa niente, Natalis, non c'è un contatto a terra. Già le ho visti che atterrano sulla tua tensione anche i volatili, non le fa niente. E non puoi neanche sparare a pallini, perché siccome sono sempre sui cavi, su antenne, su quelle cose lì, fai più danno tu che la cornacchia poi alla fine. Infatti, io già ce l'ho il fucile a pompa, se lo spari con questo, da voi magari vai da un'antenna, anche i pallini sono bei. Forse no, è i cavi telefonici, quando sono sui cavi telefonici. Se sei molto vicino e passano la blindatura che c'hanno, guai. Fanno saltare tutto. Oh, ma c'è il nome, cioè. Figurati che qua li ho visti inseguire i falchetti. Il falchetto è un predatore, cioè, è un po' più piccolo di norma. Però, insomma, eppure si mettono in due, in tre e non seguono. Oh, l'unione fa la forza. Sì. Vabbè, dovremmo ricorrere ai metodi drastici. Tanto una volta ne per fuori due, tre, penso che se ne accorgono, sono molto molto intelligenti. Dipende quella carabina che potenza, io ne avevo una potentissima, senza... di libera vendita era, però era potentissima quella carabina, era micidiale, a funghetti era. La mia è, anche la mia è di quelle di libera vendita, la 7 gialli, era funghetti, anche pallini, a colpo singolo, mirino a cannocchiale. Poi c'è anche senza canocchiale, c'è quella fibra ottica. Insomma, il bersaglio lo centra, perché l'ho parata bene, proprio in maniera seria, a 30 metri, che ne so, per le bottiglie di plastica, d'acqua, le buca da, come niente. E perlomeno quando arriva il colpo se ne accorge, comunque, bene non le farà. Io ho obbligato mi rapportato in figli e la giubilati. E quello che c'è più giù da me invece è sempre quello che spara proprio c'è la caccia. Adesso non so se ci abbia l'orto, perché poi l'orto non lo puoi tenere, è un disastro. Scendono a terra, sono proprio dannaggi, no? Finché si mangiano, che ne so io, un pomodoro intero, se ne frega due, tre, dieci. Invece se li bucano tutti. Che bastardo. La curraccia non ve la fragosa. Infatti. Ma questo è perché non c'hanno nemici comunque, perché una volta non era così, quando ero piccolo, sì c'erano, ma esistevano le rondini, c'erano tante, c'erano meno zanzare, vabbè, è tutto un disastro, un casino, si capisce. Puta. Soluzione per queste cornacchie. Ehi, cosa? Te l'ha detto che fai più danno col fucile da caccia a spararlo. Perché magari colpisci l'antenna, il gatto deve farci l'antenna. Ma dicono che poi è dura della balla, non serve a niente un uccello. È tutta che la balla, Una volta ne ho sparato una col fucile da caccia e si è sparata da Drento dove avevamo la porcillaia, cazzo, lui casa a casa mi è sparata, se l'ha mangiata il maiale. No, un attimino, ecco, è arrivato un attimo, vi lascio, dai. portati le 50 lire, mi. Vabbè, chiedete me. Vabbè, là, me ne vado anche io già tra, perché devo fare cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata, alle prossime. Caspita, alle 7:30 già. Poi passa il tempo. Ok Natalie, ciao Gianni, allora, buona serata. Anche io me la scappo, non me la accorto neanche che fosse questo. E ciao Natalino, dai, ci sentiamo. Buona cena, buona serata a tutti.